Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Sapete perché le centrali elettriche si chiamano così? Perché una volta erano in centro città, erano i tempi in cui l'elettricità serviva quasi solo per l'illuminazione e veniva distribuita in corrente continua. Poi divenne necessario a un certo punto trasmetterla a distanze sempre maggiori e ciò innescò una delle più accese contese industriali che si ricordino, passata alla storia come guerra delle correnti. Lo scontro fu fra due titani dell'industria, Edison e Westinghouse. Alla fine vinse Westinghouse e con lui la corrente alternata. Siamo a fine 800 e ancora oggi l'energia elettrica arriva nelle nostre case come corrente alternata. A determinare la vittoria fu la messa a punto da parte di Nikola Tesla, uno dei più grandi inventori della storia, di un particolare tipo di trasformatore. Il trasformatore è uno dei componenti elettrici più comuni, serve ad abbassare o ad alzare il voltaggio della corrente alternata, il che è indispensabile per trasmetterla a grande distanza, ma anche per molti altri usi. Pensate che secondo l'ENEA ce ne sono 40 di trasformatori in media nelle case di ogni famiglia italiana, praticamente uno per ogni apparecchio elettrico che possediamo. Ebbene, dopo oltre un secolo potremmo pensare di aver scoperto tutto quello che c'era da scoprire, invece no. Al Politecnico di Napoli, grazie a un accordo con Getra, un'azienda che vende in tutto il mondo trasformatori ad alta tecnologia, sta infatti per partire un programma di ricerca per progettare i trasformatori del futuro. Non parliamo di quelli casalinghi, ma dei grandi trasformatori che costituiranno il cuore delle reti elettriche di domani. Ne parliamo con il professor Guido Carpinelli, docente di sistemi elettrici per l'energia. Buonasera Carpinelli. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, partiamo da questo accordo di ricerca che è stato appena firmato mercoledì. Sì. Di che cosa stiamo parlando? Allora, si tratta di un accordo quadro tra l'azienda a cui lei faceva riferimento, la Getra, e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università di Napoli Federico II. Diciamo che come obiettivo di questo accordo quadro è sviluppare tecnologie innovative, ma anche sistemi per reti elettriche di nuova generazione, ma anche per impianti di produzione da fonti rinnovabili. Bene, in cosa si concretizza sostanzialmente questo accordo quadro? È un accordo quadro, diciamo, fra privato, Getra, e pubblico, l'università, e in cui tra l'altro Getra si impegna a investire in prima persona capitali abbastanza significativi, si parla di milioni di euro di investimento. E come dicevo si concretizza sostanzialmente, direi, in quattro ambiti. Primo sarebbe la realizzazione di un prototipo di smart grid che si vorrebbe realizzare in uno degli stabilimenti della Getra, in particolare quello di Pignataro Maggiore. Poi una serie di attività di ricerca inerenti a realizzazione di impianti innovativi da fonte rinnovabile, e questo si collega in maniera stretta al primo aspetto di cui parlavo precedentemente, data l'importanza delle fonti rinnovabili nell'ambito delle smart grid. Sì, sappiamo che le fonti rinnovabili producono energia in modo discontinuo e quindi la rete deve essere più intelligente per riuscire a utilizzare bene l'energia. Poi diciamo l'idea è anche quella di realizzare un laboratorio pubblico-privato proprio finalizzato ad attività di ricerca e di certificazione sia di componenti che di sistemi elettrici. E infine, su questo ci tengo a sottolineare perché è un'anomalia particolare su cui vorrei spendere qualche secondo, il finanziamento di dottorati di ricerca nel settore appunto dell'innovazione tecnologica di componenti e sistemi per l'energia, in modo tale da formare dottorandi che poi possono essere fattivamente impiegati direttamente nella Getra o in altre aziende che si occupano anch'esse di problemi relativi alla componentistica o ai sistemi elettrici. Perché dico questo? Perché l'area dell'ingegneria elettrica, è quella a cui io faccio riferimento, il mio appunto è il Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Università di Napoli, è una strana area in cui in sostanza si ha una domanda di laureati che è di gran lunga più grande rispetto a quello che è l'offerta, nel senso noi laureiamo molto, molto meno ingegneri di quanti sono richiesti dal mercato del lavoro. Al di là della ricerca che poi svolgerete lì, quali sono oggi le frontiere della ricerca per quanto riguarda questi oggetti trasformatori che appunto continuiamo a studiare e a migliorare da più di un secolo? Quali sono i driver soprattutto dello sviluppo tecnologico in questo momento? Ma sì, credo che si possono individuare facilmente due parole chiave, ecco, per utilizzare rendimento e qualità. Rendimento cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza utilizzare materiali innovativi, ed è diciamo, nota le attività di ricerca che si sono fatte negli ultimi decenni sui materiali magnetici amorfi, oppure la realizzazione di trasformatori a superconduttori. È un qualche cosa di abbastanza avveniristico, però sicuramente un settore su cui la ricerca si sta muovendo in maniera significativa. E questo per quanto riguarda l'efficienza, cioè il problema è che questi trasformatori, per convertire da una tensione ad un'altra, comunque si mangiano un po' qualcosa di energia. Esatto, perdono qualcosa, dobbiamo innalzare i rendimenti, lo possiamo fare con materiali innovativi oppure con i superconduttori in cui teoricamente le perdite sono praticamente almeno quelle Joule. Poi il secondo concetto è qualità, e qui si riallaccia il concetto del trasformatore a quello di smart grid di cui parlavamo prima. La tendenza è quello di realizzare trasformatori, uso un termine un poco strano, elettronici, cioè in poche parole si pensa in prospettiva futura addirittura di sostituire il trasformatore, quello inventato, come diceva lei, tanto tempo fa, anni fa, con un apparato elettronico che colleghi il nodo a tensione più elevata al nodo a tensione più bassa. Sono trasformatori molto innovativi, se ne stanno studiando tanti, alcuni con stati intermedi a frequenza molto alta, ma sicuramente questa è una soluzione che dal punto di vista dei livelli di tensione più elevato e dal punto di vista degli utenti che stanno su livelli di tensione più bassa può portare enormi benefici in termini, come dicevo, di continuità e di qualità del servizio elettrico. Ecco, ricordiamo brevemente che, per esempio le interruzioni, i buchi di tensione possono provocare danni economici nelle aziende, certo, e comunque vari problemi. È un problema che oggi investe in pratica moltissime aziende sul territorio italiano, perché purtroppo i buchi di tensione sono un evento che non si può evitare. Grazie Carpinelli. Arrivederci. È tutto, a lunedì.